Euroreportage. Verso le elezioni europee. In Baviera, Monaco vuole gli immigrati dall'Europa? Di Sergio Nava. Buongiorno dal treno che da Klagenfurt ci porta a Monaco di Baviera con un cambio a Salisburgo. Andiamo a indagare in questo reportage di Radio 24 la pancia dell'Europa, quella pancia dell'Europa tra Baviera, Carinzia, Alsazia, che alla fine è la parte più ricca ma anche quella più euroscettica, se vogliamo, di questo continente. Contiamo molto sulla puntualità delle ferrovie austriache perché il cambio a Salisburgo è di solamente 10 minuti. Le ferrovie austriache non fanno scherzi, così prendiamo senza problemi la nostra coincidenza per Monaco. Sul treno della Deutsche Bahn, una ragazza messicana e una indiana immortalano felici futuri ricordi di viaggio. Chiamano al telefono un potenziale datore di lavoro. È bello qui, dice la messicana, ma la Baviera, una delle regioni più ricche d'Europa, vuole gli stranieri? A sentire il dibattito degli ultimi mesi, si direbbe di no. Lo andiamo a scoprire. Monaco di Baviera, stazione centrale Hauptbahnhof, da qui iniziamo il nostro reportage sulla Baviera che si prepara alle prossime elezioni europee. Baviera, che è il secondo stato per popolazione tra i Länder delle regioni tedesche ed è il primo per estensione. Negli ultimi mesi la Baviera ha fatto parlare parecchio di sé per le proposte politiche contro l'immigrazione dagli altri paesi dell'Unione Europea, in particolare Bulgaria e Romania. La Baviera si sente ancora parte dell'Europa? I bavaresi si sentono europeisti? Cercheremo di rispondere a queste e altre domande. Siamo qui nel centro di Monaco, siamo con Diego Vanzi, giornalista, per oltre 20 anni alla Bayerischer Rundfunk e da più di 40 anni a Monaco di Baviera, quindi chi meglio di lui può raccontarci la Baviera oggi? Inizio con una battuta. Diego, tu mi dicesti una volta Monaco è la città più a nord d'Italia, è ancora così? Sì, io penso di sì, guardando anche le statistiche, qui abbiamo oltre 25.000 italiani che sono residenti qui a Monaco, sui 90.000 che sono in Baviera, ma restiamo pure sulla Monaco bavarese, forse quello intendevi dirmi. Ecco, qui c'è un motto che piace a molti qua, lo dicono i politici, gli industriali, anche l'uomo della strada. Il motto dice Mia san mia, cioè noi siamo noi. Ecco, è un po' lo stemma, quasi il luogo comune che identifica il bavarese in sé. C'è dentro l'orgoglio di appartenere a questo land che, sempre in base alle statistiche, è forse quello che risulta il migliore tra i 16 Länder tedeschi, quello con la minor disoccupazione, quello con il maggior PIL, quello con i maggiori investimenti, eccetera, eccetera. Quindi land, la Baviera, dove veramente si può dire di vivere bene. La Baviera negli ultimi mesi si è contraddistinta per delle posizioni che si sono spostate molto più a destra rispetto a quelle della CDU, di Angela Merkel. Gli esempi più eclatanti sono stati, per cominciare, le vignette per i pedaggi agli stranieri, che ha fatto molto discutere, e ultimamente anche tutta la questione dell'immigrazione dagli paesi più poveri dell'Europa, in particolare Romania e Bulgaria, ma non solo. Si è spostata così a destra, si sta creando, come dire, un'anima nera nel cuore dell'Europa. Una delle battute del ministro presidente della Baviera, Seehofer, è quello che la Baviera ha l'anima più nera di tutta la Germania, questa ne va orgoglioso, l'ha ripetuta recentemente anche durante il congresso della CSU a Passavia. Sì, in effetti c'è questa doppia anima in Baviera, si può notarla anche dai rappresentanti che vengono presentati adesso per le elezioni europee, Markus Ferber, il più populista, molto più pacato, e Peter Gauweiler, tendenze molto destra, è sempre stato e non ne fa assolutamente, non se nasconde, insomma, questa è la politica loro. Ma secondo te c'è un rigetto della Baviera, dei bavaresi o dei politici bavaresi verso questa Europa? Dicono Europa sì, però secondo determinate regole che vorremmo anche fare nostre, quindi molto più autonomia, molto più possibilità di intervenire, non le regole di Bruxelles accettate come sono e applicate in loco. Questo dà molto fastidio ai bavaresi, perché poi la Baviera ha una storia completa di autonomia. Tu hai visto questo euroscetticismo crescere negli ultimi anni? Con l'ingresso, ad esempio, di rumeni e bulgari, sì, c'è stato chiaramente, non solo in Inghilterra, ma anche soprattutto qui in Baviera, c'è stata una forma dicendo qui l'assistenza sociale, l'assistenza malattia, eccetera, gratis per tutti, noi non accettiamo, bisogna fare delle regole, qui non è possibile. Questo lo vedi anche nella popolazione, nella gente, con le persone con cui parli? Sì, beh, questo sì, Bavarese non lo mostra, però sicuramente lo pensa se non lo fa vedere. Però c'è anche, se vogliamo, una contraddizione in questo atteggiamento euroscettico, cioè abbiamo un paese come la Germania che sta invecchiando, che ha bisogno di forza lavoro, gli industriali hanno bisogno di forza lavoro dall'estero, e una politica invece vuole un po' sigillare le frontiere pur essendo in Europa. Quanto sta venendo fuori, o potrà venire ancora più fuori, questa contraddizione secondo te? Beh, la contraddizione è evidente, c'è, è destinata anche a rimanere, però da un punto di vista di certi politici si tenderebbe a limitare questa nuova immigrazione. Dal punto di vista invece degli industriali sono tutt'altro, vorrebbero proprio averne di più, perché sono assolutamente necessari. Qui la manodopera, hanno stabilito che ne vorrebbero molto di più. Diego Vanzi disegna i due assi che contraddistingueranno la nostra indagine a Monaco: politica ed economia. Quale Europa vuole la Baviera? Un'Europa à la carte? Andiamo a scoprirlo. Il Maximilianeum è lo storico e monumentale edificio che, incastonato in un verde parco cittadino nel pieno centro di Monaco, ospita il Parlamento bavarese. Ci si arriva con poche fermate di metro. Qui incontro Reinhold Bocklet, primo vicepresidente dell'Assemblea del Land. Bocklet appartiene ai cristiano-sociali della CSU, partito che nel dopoguerra ha sempre governato la Baviera. Bocklet rappresenta la CSU in seno al Partito Popolare Europeo. Alle spalle ha una lunga storia politica nelle istituzioni comunitarie, anche come eurodeputato. Il concetto di Europa con cui ci accoglie è decisamente ecumenico. L'idea di Europa della CSU è quella di un'Europa che, grazie ai suoi fondamenti cristiani, unisce le forze per affermarsi nel mondo odierno e garantire la pace nel continente, dice. Ma volete più o meno Europa in termini di integrazione? In calzo, lasciando perdere le premesse. Questa non è la domanda importante per noi, risponde. Noi vogliamo un'Europa meglio organizzata, che si occupi solo di ciò che può essere regolato a livello continentale. Un'Europa che ragioni in grande, che non si prenda cura di dettagli o piccolezze. Vogliamo un'Europa della sussidiarietà. La nostra critica all'Unione Europea sta nel fatto che è sempre più burocratizzata e centralizzata in ambiti dove ciò non è necessario. Rispetto alla CDU, il nostro partito gemello, abbiamo una posizione più forte sull'autonomia delle regioni europee. Wir sind stärker auf die Eigenständigkeit der Regionen bedacht. La questione immigrazione è sicuramente più sensibile. La CSU vuole chiudere le porte agli immigrati dei paesi europei più poveri, chiedo a Bocklet. Wir sind in Bayern die stärkste Wirtschaftsregion in Europa. La Baviera è la regione economicamente più forte d'Europa. Per noi l'immigrazione conta. Ciò che non vogliamo è un'immigrazione che sfrutti il sistema del welfare. La percentuale di rumeni e bulgari che ricevono sussidi legati alla disoccupazione è doppia rispetto ai tedeschi. Temiamo che la libera circolazione delle persone si rifletta in una libera circolazione di lavoratori non qualificati all'interno dei nostri sistemi sociali. Noi diciamo: venite in Germania, c'è lavoro, ma vogliamo evitare uno sfruttamento del nostro welfare system. La nostra posizione è pienamente conforme al diritto europeo. Bruxelles ha chiarito che chi non lavora non ha diritto a sussidi, obiettiamo. Quindi dov'è il problema? Ci sono tribunali tedeschi che assegnano allo straniero che non lavora il diritto all'assegno sociale, risponde Bocklet. Noi abbiamo fatto una chiara dichiarazione politica. Non vogliamo in Baviera stranieri che vengono solo per incassare l'assegno. Si tratta di persone che non hanno intenzione di entrare nel processo produttivo. A loro negheremo questa possibilità. Chiaramente qualcuno si rivolgerà a un tribunale, la questione poi passerà alla Corte Europea di Giustizia e così via. Ma per noi il principio rimane. Denjenigen, die reinkommen und nicht arbeiten, die Sozialhilfe verweigern. A piedi ci dirigiamo verso il nostro prossimo appuntamento. Percorriamo la lunga strada pedonale che collega Marienplatz a Stachus, nel cuore di Monaco, poi ci incuneiamo nelle vie che si trovano alle spalle del Palazzo di Giustizia. Siamo molto curiosi di sapere come la pensino, non solo sull'Europa, ma anche sul tema immigrazione, gli imprenditori bavaresi. Bertrand Brossard è il segretario generale dell'Associazione delle Imprese Bavaresi, la VBV. Raggruppa 111 associazioni di settore o categorie che danno lavoro a quasi 4 milioni e mezzo di persone, metallurgia ed elettronica ai settori principali. Un dato racconta la ricchezza della Baviera, quello del PIL pro capite, 36.000 euro, che fa del Land meridionale uno dei più ricchi di Germania, insieme a Baden-Württemberg ed Essen. L'economia bavarese contribuisce a quella tedesca nella misura del 18%, il tasso di disoccupazione è solo del 4,4% e l'europeismo per gli imprenditori bavaresi si misura soprattutto in termini di denaro. Buona parte delle nostre esportazioni va in Europa, dice Brossard. Parlo del 40% delle esportazioni bavaresi. Il mercato europeo è dunque il nostro mercato interno. Abbiamo bisogno di questo mercato nella sua integrità. La Francia è il partner commerciale più importante, ma anche l'Italia, per la sua vicinanza territoriale, è molto significativa, soprattutto nel settore alimentare. Più spinosa è la questione dell'immigrazione da est. Abbiamo fatto realizzare uno studio, dice Brossard, dal quale è emerso che in Baviera nel 2020 potrebbero mancare 230.000 unità di forza lavoro. Se non arriveranno, non potremo produrre. Abbiamo al proposito un programma in 5 punti. Primo, ridurre la disoccupazione interna con una riqualificazione dei nostri senza lavoro. Secondo, aumentare l'occupabilità, soprattutto delle donne. Terzo, incrementare la durata della settimana lavorativa. Quarto, una migliore formazione. Quinta e ultima priorità, dopo aver assolto le prime quattro, un'immigrazione regolarizzata e legale di manodopera specializzata e di accademici, che da noi sono benvenuti. La nostra economia ne ha bisogno e ci preoccupiamo del fatto che vengano integrati nella nostra società. Insomma, per continuare a crescere, la Baviera ha bisogno di forza lavoro, un fabbisogno che potrà venire solo parzialmente coperto con l'allungamento della vita lavorativa e con l'emigrazione interna, dal nord ma soprattutto dall'est della Germania. Per questo, che lo voglia o meno, la ricca Baviera dovrà relegare il tema immigrazione a uno slogan ai contorni più populisti, che non a un reale programma di governo. Senza immigrati, la forte economia del Land non cresce. Chiudere le frontiere a rumeni, bulgari o altri immigrati europei, questo le imprese bavaresi lo fanno intendere chiaramente, è solo controproducente. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.